правда. Vedo con te no, allontanarsi tu, senza che quella lacrima tornerò. Com'è possibile restare senza te? Ma già se scrivo su di me, il tempo passerà.